chiaramente c'è una parte di evasione che chiamiamo fisiologica o che comunque hanno un po' tutti i paesi occidentali. Ecco, noi abbiamo invece questo macigno che frena i nostri conti e che crea difficoltà al paese. Ora, il lavoro che stiamo facendo è proprio quello di ridurre al massimo questo nostro. Ma mi dica una soglia che lei riterrebbe accettabile. Noi già riuscissimo ad avere un livello di evasione, come diceva lei, pari alla metà di quello attuale. Significherebbe aver risolto tanti problemi del nostro paese. Cioè 100 miliardi in meno, cioè ci terremo 100 miliardi. Base imponibile, lei sta parlando di base imponibile. Base imponibile, eh. 100 miliardi in meno di base imponibile evasa. Quindi teniamoci altri 100 miliardi di base imponibile evasa, che vuol dire a spanne 50 miliardi in più di gettito, no? Di gettito, sì, poco meno. Diciamo. 40 miliardi. Saremo in linea a quel punto con molti dei paesi occidentali. Quindi potremmo tenerci 40 miliardi di gettito evaso, vero e proprio, e 40 miliardi invece li incasseremo di più. Già quello. Che cosa significa per lo Stato italiano incassare 40 miliardi in più l'anno? Beh, potremmo fare le misure di rilancio dell'economia e sistemare anche 2-3 punti percentuali di deficit, no? Certo. E questo voglio dire. E lo dico in tutto mantenendo una bella fetta di evasione. Lo dico a chi scrive, che insomma è preoccupato. Mantenendo una fetta di evasione che, ripeto, va sempre combattuta, perché sicuramente significa riportare il livello di evasione nella media degli altri paesi.